Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Quel giorno Masha aveva il turno mattutino al ristorante economico. Herman dormì fino a tardi. Erano le 11:15 quando si destò. Il sole splendeva, il ciangottare degli uccelli e il rombo di un autocarro che consegnava merce penetravano attraverso la finestra aperta. Nell'altra stanza, Chifrapois stava leggendo un quotidiano yiddish e di quando in quando si lasciava sfuggire un profondo sospiro a causa delle afflizioni degli ebrei e della crudeltà umana in genere. Herman andò in bagno, si sbarbò, si lavò, i suoi vestiti si trovavano nell'appartamento di Coney Island, ma teneva lì, nel Bronx, qualche camicia, qualche fazzoletto e un po' di biancheria intima. Chifrapois gli aveva lavato e stirato una camicia. Si comportava con lui come una suocera. Ancor prima che egli si fosse vestito, aveva cominciato a preparargli l'omelette. Era andata a comprare fragole appositamente per lui. Herman si sentiva servito in tutto e per tutto e al contempo imbarazzato quando faceva colazione con Chifrapois. Ella voleva a tutti i costi che si lavasse le mani servendosi di una brocca, come richiedeva il rito ortodosso. Ora che Masha non si trovava in casa, gli diede il cappello affinché lo mettesse mentre recitava la preghiera, lavandosi le mani, e dopo per la benedizione. Sedette di fronte a lui, a tavola, annuendo e borbottando. Herman sapeva a che cosa pensava. Nei campi di concentramento non sarebbe stato possibile neppure immaginare un banchetto simile. Là una persona avrebbe rischiato la vita per un pezzo di pane o una patata. Chifrapois prese una fetta di pane come se stesse toccando un oggetto sacro. Vi affondò i denti con cautela. Il rimorso guardava dai suoi occhi scuri. Poteva permettersi di godere l'abbondanza del Signore, mentre tanti ebrei timorosi di Dio erano morti di fame? Chifrapois sosteneva spesso che le era stato consentito di sopravvivere soltanto a causa dei suoi peccati. Le anime benedette, gli ebrei pii, Dio li aveva già presi con sé. «Mangia tutto, Herman, è proibito lasciare qualcosa. Grazie, l'omelette è eccellente. Come potrebbe essere cattiva? Uova di giornata, burro fresco. L'America? Possa essa prosperare a lungo, è piena di cose buone. Speriamo di non perderla a causa dei nostri peccati. Aspetta, ti porto il caffè. In cucina, mentre versava il caffè, Chifrapois ruppe un bicchiere. Rompere stoviglie era uno dei suoi difetti. Masha la rimproverava spesso per questo e Chifrapois si vergognava della propria debolezza. Non ci vedeva più come un tempo. In passato, assicurava Herman, non aveva mai rotto niente. Ma poi era uscita dai campi di concentramento ridotta a un fascio di nervi. Soltanto Dio in paradiso sapeva quanto soffrisse, quanto fosse torturata dagli incubi. Come si può restare in vita ricordando tutto quello che ricordava lei? In quel momento stesso, mentre era in piedi davanti alla cucina economica, aveva veduto nell'immaginazione una fanciulla ebrea spogliata, nuda, e costretta a restare in equilibrio su un palo sopra un pozzo nero. Tutto intorno a lei si trovavano gruppi di tedeschi, di ucraini, di lituani, che facevano scommesse per stabilire quanto tempo ella sarebbe riuscita a rimanere ritta lassù. Lanciavano insulti contro di lei e contro gli ebrei, mezzo ubriachi, avevano continuato a guardare finché quella bella creatura diciottenne, quella figlia di rabbini e di ebrei stimati, non era scivolata e caduta negli escrementi. Chiffrepoix rievocava con Herman centinaia di episodi del genere, e ora era stata questa reminiscenza a farle cadere il bicchiere di mano. Herman venne ad aiutarla a raccattarsi per il vetro, ma lei non glielo consentì. Avrebbe potuto, Dio non volesse, tagliarsi le dita. Raccolse con lo scopino e la paletta della spazzatura le schegge di vetro, poi gli portò il caffè. Lui provava spesso la sensazione che qualsiasi cosa ella toccasse divenisse sacra. Beve il caffè e mangiò una fetta di torta che Chiffre aveva cotto nel forno appositamente per lui. Il medico le aveva imposto una dieta severa. Era assorto in pensieri così consueti e familiari che non sarebbe più riuscito a tradurli in parole. Herman non doveva andare in ufficio. Masha terminava di lavorare a mezzogiorno ed egli le andò incontro al ristorante. Masha avrebbe avuto le sue prime ferie quell'estate, una settimana. Non vedeva l'ora di andare in qualche posto con lui, ma dove? Herman percorse la Tremont Avenue verso il ristorante economico. Passò accanto a negozi che vendevano oggetti di fantasia, vestiti da donna, articoli di cancelleria. Commessi e commesse rimanevano seduti in attesa dei clienti, proprio come a Chiffcaff. I magazzini a catena avevano costretto alla bancarotta molti dei piccoli negozi, qua e là vedevano esibire alle porte i cartelli affittasi. C'era sempre qualcuno pronto a ritentare la fortuna. Herman entrò nel ristorante passando per la porta girevole e vide Masha. Ella era là, in piedi, figlia di Meyer Bloch e di Chiffrepoix, a ritirare scontrini, a contare soldi, a vendere gomma da masticare e sigarette. Lo scorse e sorrise. Stando all'orologio del ristorante, doveva lavorare ancora per 20 minuti e pertanto Herman sedette a un tavolo. Preferiva un tavolo accanto alla parete o, se possibile, nell'angolo tra due pareti, per essere certo che nessuno potesse avvicinarglisi alle spalle. Nonostante l'abbondante colazione che aveva appena mangiato, ordinò al banco una tazza di caffè e un budino di riso. Sembrava impossibile per lui ingrassare. Era come se un fuoco interiore in lui consumasse ogni cosa. Da lontano osservò Masha. Sebbene il sole splendesse attraverso le finestre, la luce elettrica era accesa. Ai tavoli vicini altri uomini leggevano apertamente quotidiani yiddish. Non dovevano più nascondersi a nessuno. Questo sembrava sempre qualcosa di simile a un miracolo a Herman. Per quanto tempo potrà durare? Domandava se stesso. Uno degli avventori stava leggendo un giornale comunista. Probabilmente era insoddisfatto dell'America, sperava in una rivoluzione, si augurava che le masse sciamassero nelle vie, frantumassero le vetrine dei negozi accanto ai quali Herman era appena passato e trascinassero i proprietari in prigione o nei campi di lavoro forzato. Herman sedeva immobile, preoccupato dalle complicazioni della sua situazione. Si era trattenuto nel Bronx per 3 giorni. Aveva telefonato a Jadwiga, dicendole di essere costretto a recarsi da Filadelfia a Baltimora e promettendole di tornare quella sera. Ma non era tanto sicuro che Masha lo lasciasse andare. Avevano parlato di recarsi a vedere un film insieme. Ella si avvaleva di ogni espediente per trattenerlo con sé e rendeva le cose difficili il più possibile. L'odio che provava nei riguardi di Jadwiga sconfinava nell'irrazionale. Se Herman aveva una macchia sul vestito o gli mancava un bottone della giacca, lei si affrettava ad accusare Jadwiga di indifferenza, ad accusarla di vivere per Herman soltanto perché egli la manteneva. Masha costituiva il miglior argomento che Herman conoscesse per avvalorare la tesi di Schopenhauer, secondo cui l'intelligenza è soltanto una schiava della cieca volontà. Masha finì di lavorare al registratore di cassa, consegnò il denaro e gli scontrini alla cassiera che le dava il cambio e venne verso il tavolo di Herman con il proprio pranzo su un vassoio. Aveva dormito pochissimo quella notte e si era svegliata presto, ma non sembrava stanca. La solita sigaretta le pendeva tra le labbra e aveva già bevuto parecchie tazze di caffè. Le piacevano i cibi piccanti, la salsa di crauti, i sottaceti all'aneto, la mostarda. Aggiungeva sale e pepe a tutto quello che mangiava. Beveva il caffè nero senza zucchero. Beve ora un sorso di caffè e aspirò profondamente la sigaretta. Lasciò intatti i tre quarti del suo pranzo. «Beh, come sta mia madre?» domandò. «Va tutto benissimo». «Benissimo? Devo accompagnarla dal dottore domani». «Quand'è che avrai le ferie?» «Non lo so ancora con certezza. Vieni, usciamo di qui. Avevi promesso di portarmi al giardino zoologico». Sia Masha sia Herman potevano camminare per chilometri. Masha si fermava spesso davanti alle vetrine, disprezzata le vetrine di cani, ed era veramente interessata alle occasioni e ai saldi. I negozi che stavano per fallire potevano vendere la merce con grandi ribassi, talora a metà prezzo. Per pochi centesimi Masha acquistava scampoli dai quali ricavava vestiti per sé e per sua madre, cuciva anche trapunte, tende, persino fodere per i mobili. Ma chi andava a farle visita? E dove andava lei? Si era estraniata dai profughi suoi amici, anzitutto per evitare Leon Tortschiner, che faceva parte della loro cerchia, e in secondo luogo a causa della relazione con Herman. Esisteva sempre il pericolo che egli potesse incontrare qualcuno dal quale era conosciuto a Coney Island. Si fermarono ai giardini botanici per ammirare i fiori, i palmizi, i cactus, le innumerevoli piante cresciute nel clima artificiale delle serre. A Herman accade di pensare che gli ebrei erano un prodotto di serra. Venivano fatti prosperare in un ambiente estraneo, nutriti dalla fede nel Messia, dalla speranza di una giustizia a venire, dalle promesse della Bibbia, il libro che li aveva ipnotizzati in eterno. Dopo qualche tempo, Herman e Masha proseguirono verso il giardino zoologico del Bronx. La sua fama li aveva raggiunti persino a Varsavia. Due orsi polari sonnecchiavano all'ombra di una roccia strapiombante, accanto a una vasca d'acqua, sognando senza alcun dubbio nevi e iceberg. Ogni animale e ogni uccello comunicava qualcosa nel suo linguaggio senza parole, una storia tramandata da tempi preistorici che al contempo rivelava e celava le modalità di una ininterrotta creazione. Il leone dormiva e di quando in quando socchiudeva pigramente gli occhi dorati, nei quali si leggeva lo sconforto di coloro cui non è consentito né vivere né morire. Con la coda possente scacciava le mosche. Il lupo andava avanti e indietro, girando intorno alla propria follia. La tigre fiutava il pavimento, cercando un posto sul quale sdraiarsi. Due cammelli si tenevano immobili e fieri, una coppia di principi orientali. Herman paragonava spesso il giardino zoologico a un campo di concentramento. L'atmosfera lì era satura di desideri, dei deserti, delle colline, delle valli, delle tane, delle famiglie. Come gli ebrei, gli animali erano stati trascinati sin lì da tutte le parti del mondo, condannati all'isolamento e alla noia. Alcuni di essi urlavano a gran voce la loro afflizione, altri restavano muti. I pappagalli rivendicavano i propri diritti con rauche strida. Un uccello dal becco a forma di banana voltava la testa a destra e a sinistra, come se avesse cercato il colpevole dal quale gli era stato giocato quel tiro. Il caso? Le leggi di Darwin? No. Esisteva un piano, o perlomeno un gioco giocato da poteri consapevoli. A Herman tornarono in mente le parole di Masha sui nazisti in paradiso. Non era possibile che un Hitler presiedesse dall'alto e infliggesse sofferenze alle anime prigioniere? Egli le aveva munite di carne, sangue, denti, artigli, corna, ira, ed esse dovevano o commettere il male o perire. Masha gettò via la sigaretta. «A che cosa stai pensando? Se la gallina è venuta prima dell'uovo o viceversa? Su, comprami un gelato». Herman trascorse due giorni con Jadwiga. Siccome si era proposto di partire con Masha per la sua settimana di ferie, badò bene a parlare subito a Jadwiga di un viaggio che avrebbe dovuto compiere fino alla Chicago. Per compensarla in anticipo, la condusse fuori per tutto il giorno. Subito dopo colazione si recarono sulla boardwalk e comprarono i biglietti per un giro in giostra. Jadwiga quasi strillò quando Herman la mise a sedere su un leone, quanto a lui cavalcò una tigre. Con una mano lei si sosteneva alla criniera del leone, mentre nell'altra aveva un cono gelato. Subito dopo salirono sulla ruota delle meraviglie e il vagoncino nel quale si trovavano oscillò da un lato all'altro. Jadwiga cadde addosso a Herman e rise di paura e felicità. Dopo un pranzo a base di knish, pancetta ripiena e caffè, passeggiarono fino al battello per Breezy Point. Jadwiga temeva di soffrire il mal di mare, ma l'acqua rimase calma. Le onde, un misto di verde e oro, si increspavano appena. La brezza aveva arruffato i capelli a Jadwiga ed ella se li legò a coda di cavallo con un fazzoletto. Sul pontile al quale si ormeggiò il battello stavano suonando musica e Jadwiga beve una limonata. La sera, dopo che avevano cenato con un piatto di pesce, Herman la portò a vedere un film musicale. Donne e palazzi magnifici. Le tradusse il dialogo in modo da farle capire quanto accadeva. Jadwiga gli si rannicchiò contro, gli prese la mano e di quando in quando se la portò alle labbra. «Sono così felice, così fortunata», bisbigliò. «Dio in persona ti ha mandato a me». Quella notte, dopo poche ore di sonno, ella si destò colma di desiderio, lo supplicò, come aveva fatto tante volte in passato, di darle un figlio e di fare in modo che potesse convertirsi al giudaismo. Lui le promise tutto quello che chiedeva. In mattinata Masha telefonò a Herman per dirgli che le sue ferie erano state rinviate di alcuni giorni, essendosi ammalata la cassiera che doveva sostituirla. Herman avvertì Jadwiga che il viaggio a Chicago, grazie al quale aveva sperato di vendere un mucchio di libri, doveva essere rinviato. Sarebbe invece andato a Trenton, una località vicina. Fece una breve puntata nell'ufficio del rabbino sulla 23ª strada, poi prese la sotterranea per recarsi a casa di Masha. Sarebbe dovuto essere contento, e invece era tormentato dal presentimento di quasi che cosa poteva trattarsi, una malattia? Oppure, Dio non volesse, qualche disgrazia sarebbe toccata a Masha o a Jadwiga? Lo avrebbero arrestato e deportato per il mancato pagamento delle tasse? Beh, è vero che probabilmente non guadagnava abbastanza, ma avrebbe dovuto riempire lo stesso il modulo. Forse doveva al governo federale e allo Stato pochi dollari. Sapeva che alcuni compaesani di Chifkaf erano informati della sua presenza in America e stavano cercando di mettersi in contatto con lui, ma preferiva mantenere le distanze. Ogni rapporto umano costituiva per lui un pericolo potenziale. Sapeva anche di avere parenti lontani in qualche località degli Stati Uniti, ma non domandava dove fossero né voleva saperlo. Herman trascorse quella sera con Masha. Litigarono, fecero la pace, tornarono a litigare. Come sempre, la loro conversazione abbondò di promesse che entrambi sapevano non avrebbero mai mantenuto, di fantasticherie, di piaceri irraggiungibili, di domande poste per provocare la reciproca eccitazione. Masha si domandò se egli avrebbe consentito di andare a letto con sua sorella, qualora ne avesse avuto una. E lei, volle sapere Herman, avrebbe goduto, dividendosi lui e suo fratello, se egli avesse avuto un fratello? Come si sarebbe comportata se suo padre fosse stato ancora in vita e lo avesse preso una passione incestuosa per lei? Avrebbe continuato, Herman, a trovarla desiderabile se ella si fosse decisa a tornare con Leon Torschiner o se avesse sposato qualche riccone per i soldi? Se sua madre fosse morta, Masha sarebbe venuta a vivere con Herman e con Jadwiga? E avrebbe lasciato Herman se egli fosse diventato impotente? Spesso le loro conversazioni culminavano con discorsi sulla morte. Credevano entrambi che sarebbero morti giovani. Masha lo esortava ripetutamente ad acquistare una tomba al cimitero per loro due, affinché potessero essere seppelliti insieme. In preda alla passione, gli assicurava che sarebbe venuta a fargli visita nella tomba e che avrebbero fatto l'amore. Come avrebbe potuto essere altrimenti?